Sono le 7 e qualche secondo. Chi vi parla è l'Ariele, dalle frequenze di Rock FM. Ciao ciao. Dall'altra parte del vetro c'è Spadino. È finita la dura pausa, siamo tornati, pronti a tenervi compagnia fino alle 9. Buon 2008, l'anno della svolta. E allora, puntata 152, quanto mi sei mancato, Spadino? Guarda, bentornati. Pane, burro e rock and roll, la nostra sigla, la tua colazione rock. Beh, la sigla mi mancava un botto. Pane, burro e rock and roll, sa quanto ci impiegherò a riabituarmi, tipo già adesso. It's very good. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La colazione che dà assuefazione, ecco la tornata sulle frequenze di Rock FM. Di nuovo il buongiorno da parte dell'Ariele, c'è Mister Trombetta con noi. Puntata numero 152 con la quale iniziamo la nuova stagione, il nuovo anno. Cos'è? Mercoledì 2 gennaio 2008. Ah, quante cose avrei da raccontarvi, pure troppe. Tanto vi auguro la buona giornata, che è un buon inizio. In attesa, come ogni santo giorno, dell'arrivo della scintilla di questa trasmissione radiofonica, ovvero del maestro Roberto Fricantoni. Sì, anche quest'anno ci terrà compagnia. Io sono tornato qui, in una Milano ancora nell'ombra, nell'oscurità, direi una Milano ancora abbastanza vuota, abbastanza deserta. La gente è ancora in giro a far festa, bravi, complimenti. Noi di Pane, Burro e Rock and Roll invece ci siamo. Siamo qui, pronti per darvi la sveglia. E lo faremo chissà ancora per quanto. Beh, tanto accontentiamoci, no? Ci siamo, si inizia. Pensavamo insieme a Spadino e alla redazione, a quel che è rimasto della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, di dare un bel inizio sonoro alla puntata di quest'oggi, così in maniera ben augurante per questo 2008 che ci accingiamo a vivere insieme. Ovviamente, visto che l'unica cosa certa di questa trasmissione è la buona musica, pensavamo di... l'obiettivo era quello di partire col piede giusto. Noi quest'oggi si parte così. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little law, any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Make you cry if I'm not back again this time. do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Just a poor boy from a poor family, spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, let me go, let me go. Never, never, never let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Svolta. Lo abbiamo iniziato così, all'insegna di Anyway the Wind Blows. Non male, eh? Bohemian Rhapsody, Queen. Anyway the wind blows. Sarà l'età che avanza, ma sto prendendo questo viziaccio di chiudere le serate, di chiudere i DJ set con Bohemian Rhapsody, che solitamente tra l'altro mi faccio prestare da Max De Rio. Perché io non ce l'ho, cioè ce l'ho a casa, mi dimentico sempre di portarla. Mi ricordo sempre a un quarto d'ora dalla fine del DJ set, cazzo, devo mettere Bohemian Rhapsody. Derigo, ce l'hai? E sto prendendo il brutto vizio di commuovermi quasi tutte le volte che la sento. Eh sì, è la vecchiaia, ovviamente, gli anni che passano. Ah, che bello questo momento quando si riprende così, quando mi ritrovo finalmente di fronte al microfono dopo un po' di giorni che non ci sputa chiavo sopra. È molto carina la sensazione, eh? Perché così ci si deve un po' abituare, bisogna riprendere un po' le distanze. Si ripiglia una nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, alla quale ovviamente siete invitati tutti voi là fuori, amici che già ci conoscete, amici che già non potete fare a meno di noi, amiche che già non potete fare a meno di voi, di noi. Sì, passa il tempo ma sono sempre lo stesso, eh? Non è che mi passa la cialtronaggine, resta quella lì. Anche voi che invece non avete mai sentito questa trasmissione radiofonica, che ci siete capitati casualmente, restate con noi per un po', vedrete, vi abituate, siete in buona compagnia, qua stiamo tutti messi male. Vi ricordo il nostro numero di SMS, oh, che bello, 335 100 7777. Numero di SMS dove c'era una sfilza di auguri di buon anno, nel senso che sono il primo che torna in diretta dalla pausa dei festeggiamenti per l'anno nuovo. Ringrazio randomicamente tutti quanti e invece darò più attenzione agli amici che invece scrivono in diretta a Pane, Burro e Rock and Roll. Di che ci occupiamo in questo nuovo anno? È dura, eh? Bisogna prendere delle decisioni, eh? Settimana corta da qua venerdì, ci facciamo venire un po' di idee. Sicuramente un po' di novità le abbiamo già preparate con la redazione, appena arriva Freak ve le sforniamo un po'. Quindi già oggi, nella puntata di quest'oggi, ci saranno un po' di novità, però bisogna inventarsi cosa fare con voi là fuori. Torniamo a fare i gruppi d'ascolto? Bisognerebbe farlo. Ehi tu là fuori, cosa stai facendo mentre ascolti Pane, Burro e Rock and Roll? Poi secondo me bisogna rinverdire, non chiederti cosa pane, burro e rock and roll può fare per te, ma cosa tu puoi fare per pane, burro e rock and roll. La redazione mi ha preparato un meraviglioso A4, foglio di carta, con su tutti i numeri di telefono degli inviati già, tra virgolette, storici di pane, burro e rock and roll. Sappiate che nel 2008 vogliamo rimpolpare parecchio questa lista, quindi come linea di contatto il numero di SMS, se avete qualche idea che apporto volete portare a questa trasmissione, scrivetelo ora o tacete per sempre. E poi si riprende coi provini per diventare musicisti rock con la bocca, insomma ce n'è di robaccia da fare, restate con noi. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Mi sento strano, Spadino, e mi sento proprio fisicamente strano oggi, che roba, è l'emozione. Sarà. È sempre un po' come la prima volta per noi professionisti. Mancheranno allora, come promesso, le sorprese del 2008. La prima da fare al volo che è stato rinnovato il contratto anche di Roberto Fricantoni. Evviva! Dove ho messo la trombetta? Quale trombetta, maestro? Quella che mi ha prestato ieri o ieri l'altro giorno, l'altro deve ieri, averla non presa ricordo. Isacco, quella che ha usato a Capodanno per il concerto. Sì, sì, insieme al mio berretto, quello a punta con le orecchie, che mi hanno messo gli amici. Il buongiorno ai suoi radioascoltatori e alle sue radioascoltatrici. Farò di più, darò il buongiorno e anche il buon anno. E allora, un 2008, evviva. L'anno della svolta. La nicchia trionferà. Maestro, tanto per svoltare, facciamo un almanacco come ai vecchi tempi? Ma direi di no. Fantastico, fantastico. L'ho messa in imbarazzo, dica la verità. Mi fa sempre spezzare dalle risate. Inizio io in questo mercoledì 2 di gennaio parlando del lontano 1870. Iniziava proprio oggi la costruzione del ponte di Brooklyn, quello delle cicche. Quello della gomma, dell'omonima gomma del ponte. Il primo ponte costruito in acciaio e per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo, escludendo quello di Messina. Quale ponte? Come di Messina? Beh, sì, quello della Sicilia. Beh, non è stato ancora fatto. Beh, vabbè, oggi funziona il virtuale come se fosse stato fatto. Conta anche quello. Conta anche quello, soprattutto per noi italiani che siamo così noti per la nostra fantasia. Ma cambia l'anno, ma lei è sempre il solito buontempone. 1872, il signor Brigham Young. No, dica bene, dica meglio, scusi. Brigham Young. No, è giusto, ma lei si è rinciampato prima nelle prove. Vuole che lo legga maniera... con l'inciampo freudiano? Esatto. Allora lo chiameremo Brigham Young. Esatto. Capo della chiesa mormona, viene arrestato per poligamia. 25 mogli. 25 mogli, sì. Sono combattuto da due sentimenti contrapposti e contrastanti. Ovvero? Non so se ammirarlo o compatirlo, perché 25 mogli, insomma, sono un bel risultato, quindi i miei complimenti. Però sono anche un grande onere. Dove c'è l'onore, c'è anche l'onere. E chiudiamo in bellezza, proseguiamo i festeggiamenti del Capodanno, perché il 2 gennaio del 1927 viene istituita la provincia di Varese. Bravissimo, mi dica qualcosa in varesotto. Bravissimo, grazie, bravissimo. Grazie, ho studiato. Si vede. Non mi viene così, cara. Isacco mi guarda male perché anche lui è della provincia. Vuoi dire qualcosa in varesotto? Corri negli studi se te la senti. Venga, vai, subito, vai. Dottor Isacco. Stai a fare Isacco. I cretinetti, corri. Dottor Isacco. In diretta, Rizzi. Isacco Rizzi parla in varesotto. Vi, se andrà cos'è? Lo sa meglio di me. Va bene, torneremo a parlare cosa di detto, dialetto. Dottor Rizzi, detto, cosa e detto? Ragazzi, cosa state combinando? Una roba così. Va coerente, bene. Coerente. Sì. Oltre che perfetto nella pronuncia, mi sembra di capire, dal suo stupore positivo. Non vedo l'ora di passare tutto il 2008 con lei. Altrettanto. Tira, hot afternoon, but to settle down and write you a line. I've been meaning to phone you, but from Minnesota, hell, it's been a very long time. You wear it well, a little old fashioned, but that's alright. Well, I suppose you're thinking, I bet he's sinking, or he wouldn't get in touch with me. Oh, I ain't begging for losing my head. I sure do want you to know that you wear it well. There ain't a lady in the land so fine. Oh my, remember them Mexican boys, your brother's karate, the all-day rock and roll shows, them homesick blues and the radical views haven't left a mark on you. Time that I don't mind, but I ain't 7:23 minuti primi, siamo tornati, spargete la voce. Possiamo riprendere anche il compito di spargere la voce ai vostri amici, ai vostri nemici, ai vostri parenti, alle vostre amanti. Ascoltate la mattina Pane, Burro, Rock and Roll, perché fa bene. A questo proposito, in questa lunga pausa che ci siamo presi, ho avuto modo di fare alcune serate, quindi di conoscere nuovi radioascoltatori e nuove radioascoltatrici. Una delle più carine è stata una ragazza. Ma tu sei Ariel? Sì, sono Ariel, ciao. Ma sai che il mio fidanzato mi obbliga a svegliarmi con voi? Era incestuosa la cosa, c'era quel filo di incestuosità che mi è piaciuto, mi è garbato, quindi saluto tutti gli amici che costringono le fidanzate a svegliarsi con Pane, Burro, Rock and Roll. Buon gustai, buon gustai. Qui c'è l'Ariele e la squadra di Pane, Burro, Rock and Roll ricostituita per questo 2008, l'anno della svolta. Da vero professionista non ho ancora mai accennato alla nostra casella di posta elettronica, perché ho un piccolo problema di mail insolute dal 17 di dicembre. Ho un centinaio di richieste di calendario alle quali rispondo, è sicuro. Adesso c'erano le vacanze, c'era il Capodanno, tutte quelle robe lì. Adesso capitemi, ero un attimo preso, lasciatemi riprendere il giro e sicuramente andrò a rispondere a ogni singola richiesta pervenuta ad ariel@radiorockfm.com. Ma perché non regalarsi un paio di minuti di Pane, Burro e Rock and Roll speciale miele nella vostra colazione? If I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? What can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Thank you. casa di cura Eleonora Duse, in collaborazione con la trasmissione radiofonica Pane, Burro e Rock and Roll, è orgogliosa di invitarvi sabato 12 gennaio 2008 alla consegna patenti davvero autentico rocker a Firenze, Auditorium Flog, Collina del Poggetto. Inoltre, i Pay, gruppo dell'Ariele dal vivo live, con la partecipazione straordinaria dal vivo live di Roberto Fricantoni e la presentazione del calendario 2008, l'anno della svolta, il calendario di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma le patenti davvero rocker mica gliele diamo così? Facciamo no, il test. Se li devono guadagnare con il test attitudinale. Vi aspettiamo il 12 gennaio alla Flog. Ci sono i Pay, c'è Fricantoni, c'è l'Ariele, c'è il calendario. Cosa volete di più? La tessera.